la versione di Oscar Giannino. This is the end. Beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori da Oscar Giannino, buon lunedì 10 di febbraio, 16.35 primi 33 secondi, siamo qua in diretta agli studi di Milano di Radio 24, subito il tema del giorno per consentirvi di telefonare all'800 24 00 24. Oggi parliamo di due esempi e la domanda che vi formulo è se siate d'accordo con che cosa? Se siate d'accordo con il fatto che per esempio i 70.000 circa distacchi sindacali che ci sono nel nostro paese, in coerenza alle norme vigenti per le quali il distacco sindacale viene concesso per l'esercizio dei diritti di rappresentanza azione sindacale, con coerenza a quello che prevedono le nostre norme, ma che naturalmente prevedono anche un costo pubblico, no? Per la copertura degli oneri, da questo punto di vista, se siete d'accordo sul fatto che i 70.000 distaccati sindacali restino riservati, cioè non abbiamo diritto a sapere chi sono di preciso, dove sono, c'è un obbligo di riservatezza ancora oggi che non viene violato. La stessa cosa riguarda, per fare un altro esempio, i nomi e soprattutto le retribuzioni dei dirigenti e dei consulenti esterni della RAI. Ecco, questi sono due esempi per i quali non vale l'obbligo di trasparenza, almeno fino ad oggi non è valso, e tenteremo di capire meglio con un collega che se ne è occupato e ha approfondito la faccenda come e perché, cioè se vi sia un obbligo di trasparenza che viene violato oppure se invece le leggi vigenti tutelino ancora la riservatezza. Vedremo in che modo l'autorità garante della privacy la pensa, se bisogna aspettare che farà qualcosa oppure no. E prima di presentarvi l'ospite, fatemi solo spendere un'altra parola però per un argomento obbligato oggi. Oggi è un'altra giornata della memoria nel calendario pubblico civile nazionale, e il giorno della memoria oggi è dedicato alle vittime delle foibe. Le foibe, quante siano state le vittime italiane non lo sappiamo ancora, a distanza di tanti anni, tra quei terribili anni tra il 43 e il 47, soprattutto tra il 45 e il 47, quando la Venezia Giulia tra il 45 e il 47 si trovò a dover applicare gli effetti del trattato di pace, e quindi Istria e Dalmazia e parte della Venezia Giulia passarono alla Jugoslavia titina. E in quegli anni, come era già avvenuto nella Venezia Giulia tra, dopo l'8 settembre del 43 fino al 45, si scatenò una caccia agli italiani, per così dire, e non sappiamo ancora se siano 5.000 o 10.000 coloro che vennero buttati, molti vivi ancora, nelle foibe. E oltre a questo, secondo me bisogna ricordare poi una piaga verso la quale l'Italia ha tenuto le orecchie e gli occhi chiusi per tanti anni, perché poi furono 350.000 gli esuli italiani da Istria e dalle parti che divennero Jugoslavia della Venezia Giulia a dover venire esuli lasciando tutto in Italia, e nei loro confronti anche si è spenta la memoria. Voglio fare un'aggiunta. Proprio stamattina un amico imprenditore mi ha fatto notare una cosa che non ho visto né sentito a questo proposito, proprio del giorno della memoria, e questo amico imprenditore mi ha ricordato come per esempio lo zio, fratello della madre di Sergio Marchionne. Sergio Marchionne era figlio di italiani che vivevano in Istria, perché il padre era un ufficiale, poi ufficiale, che si era trasferito lì negli anni 30, e uno zio di Marchionne è stato infoibato, scomparso, proprio vittimo della violenza dei titini, anzi un nonno, perdonatemi, perché lo zio fu ucciso dai nazifascisti. Quindi, e questo amico imprenditore mi ha detto, pensa, poi la famiglia è stata esule, appunto, ha lasciato l'Istria, è venuta in Italia prima e poi, dopo l'esilio italiano, per così dire, sono andati in Canada. E questo imprenditore mi ha detto, pensa, nella storia della famiglia Marchionne, quanto questa cosa deve essere forse contato e pesato rispetto al fatto di fidarsi poco dell'Italia, per come l'Italia si è comportata nei loro confronti. Ecco, questa considerazione che non avevo mai fatto, e che naturalmente poi intreccia i giudizi che tante volte abbiamo dato esaminando le vicende di Fiat e questa difficoltà per l'Italia di capire Sergio Marchionne, però pensateci in questa giornata anche se per chi ha avuto, ha perso tutto nella vita, come è capitato a 350.000 italiani, e chi ha perso poi migliaia di parenti, davvero l'Italia abbia fatto tutto quello che era necessario per farsi prendere in parola e credere rispetto a chi poi è stato prima Mesul e poi se n'è andato all'estero. Fine di questo pensiero obbligato, e andiamo invece a presentare l'ospite del giorno. E con noi appunto il collega che in questi giorni sulla stampa ha approfondito questa faccenda della riservatezza degli stacchi sindacali e delle retribuzioni dei dirigenti e dei consulenti esterni della RAI. Francesco Grignetti, che scrive sulla stampa. Grazie di essere con noi, Francesco. Grazie a voi per l'invito. Allora, iniziamo a prendere. Che cos'è che ti ha attirato sul fatto che i 70.000 distaccati e la RAI restavano riservati? Cioè, la notizia in sé e per sé, che l'hai creata tu poi nei giorni successivi coltivandola, però perché ti aveva attirato l'attenzione? Ma sai, una notizia tira l'altra, no? E quindi parlando con lo staff del ministro della pubblica amministrazione, perché c'è in ballo quel famoso DDL annunciato sulle incompatibilità dei presidenti degli enti, no? Quella questione che ha a che fare post Mastrapasqua, insomma. Esattamente, stiamo parlando di circa un migliaio di enti, tra piccoli e grandi, quindi ci sono un certo numero di boiardi di Stato che in questo momento hanno dei problemi, tremano, e, perché poi sono così l'amministrazione, i direttori generali coinvolti, insomma c'è veramente una zona, uno spicchio del potere, della zona grigia del potere. Quindi insomma, diciamo, da notizia nasce notizia, e sono venuto a sapere che c'era in atto un carteggio con il garante per la privacy, perché il ministro D'Alia voleva rendere pubblici i nomi dei sindacalisti distaccati. Qui mi preme però fare una precisazione: 70.000 è un numero complessivo, sì, molto alto, sì, dove dentro ci sono i distaccati, che sono proprio il sindacalista a tempo pieno, esatto, e i permessi sindacali, che sono, chiamiamoli, i sindacalisti part time, cioè sono dei lavoratori che hanno anche delle funzioni sindacali, rivestono delle funzioni sindacali e magari ottengono un giorno, un mezzo giornata di permesso. Certo, ecco. Senza per questo appunto abbandonare il lavoro. Assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo, rispetto a 70.000, che è un numero molto grande, in realtà i distaccati, cioè il sindacalista doc, quello a tempo pieno, quello che viene pagato con lo stipendio dello Stato ma non fa il lavoro per cui viene pagato, bensì fa il lavoro di delegato sindacale, che è normale, nessuno si scandalizza, qui il problema è soltanto conoscerne i nomi, sarebbero circa 5.000. Sì. Ok. Allora, scopro che il garante per la privacy invece si oppone decisamente, quindi da lì una chiacchierata con il ministro, poi un'intervista al presidente Soro, che guida attualmente l'autorità per la privacy. Sì. Niente, sono due posizioni assolutamente inconciliabili. Però la sorpresa è rappresentata dal fatto che il presidente Soro, ex politico, che adesso però è alla testa dell'autorità della privacy, dopo il costituzionalista Pizzetti che insegnava a Torino, dice: io non posso ottemperare, se ho capito bene l'intervista, alla richiesta del ministro, perché una legge precisamente obbliga la riservatezza dei distacchi sindacali. Sì, la loro interpretazione è questa, cioè che la legge tutela la privacy per gli iscritti ai sindacati. Tanto è vero che io ho chiesto: ma è possibile non dire quale sigla sindacale rappresenta, ma semplicemente mettere il nome in un elenco di nomi, perché è stato distaccato, comunque riveste ai miei occhi un ruolo pubblico. Perché no? L'interpretazione della legge è relativa non tanto al nome, ma è relativa all'affiliazione di questa o quella sigla sindacale, cioè sull'indirizzo a cui appartiene, diciamo così, politico, culturale, sindacale, a cui appartiene essendo di un sindacato o l'altro, è questo che andrebbe tutelato. Diciamo che dai miei occhi si parte da questo punto. Gli occhi del garante invece la questione è più estesa, loro non fanno distinzione se la iscrizione a quel sindacato o ai sindacati in generale, secondo loro vale questa seconda interpretazione, quindi chiunque sia iscritto a un qualunque sindacato per questo motivo non può essere, diciamo, come dire, oggetto di trasparenza. E vi dico, le due interpretazioni sono assolutamente inconciliabili, perché esatto, il governo ritiene che invece quell'elenco possa essere pubblicato perché sono dipendenti pubblici e quindi tenuti alla trasparenza nei comportamenti, in alcuni ovviamente, no, funzioni, il garante invece, che è questa authority, ritiene di no. non so come se ne dice, o meglio, il divieto del garante è insormontabile in questa fase, a meno che non si cambi la legge o si aggiunga quindi bisogna cambiare la legge. Che anche il delegato sindacale che ottiene distacco è equiparabile a un parlamentare o a un consigliere regionale. Quindi... Allora, sentiamo su questo primo punto cosa pensano i nostri ascoltatori, vedo già telefonate, però ci abbiamo primi 60 secondi sull'informazione stradale. La versione di Oscar. Breaking news. 16:46 minuti e 19 secondi, poco fa tensione e scontri davanti a Montecitorio, sono tornati nuovamente i manifestanti dei forconi, sventolavano bandiere tricolori, inneggiavano cori contro il governo e il Parlamento, la polizia ha caricato, sono stati certamente fermate almeno tre persone, naturalmente alle 17 con collegamenti in diretta da Montecitorio vi daremo nuovi particolari. Ed eccoci qua, siamo tornati in diretta anche noi, avete sentito, le tensioni non scendono, vedremo quali sono gli sviluppi di questi scontri. Eravamo rimasti alla spiegazione che ci dava Francesco Grignetti della Stampa, interpretazioni contrapposte del governo, ministro D'Alia e invece l'autorità della privacy sul fatto che i 70.000, di cui 65.000 permessi sindacali e 5.000 distaccati a tempo pieno, sono soprattutto questi che ovviamente vengono pagati da noi, contribuenti. Però non ci si riesce a mettere d'accordo, perché il garante dice no, io devo tutelare la loro privacy. Sentiamo come la pensano alcuni nostri ascoltatori, cominciamo con Claudio. Claudio da Roma, prego Claudio. Salve, buonasera a tutti. Allora, per quanto mi riguarda potrei anche accettare il discorso che nessuno sa chi sono, cioè non nessuno sa, si sa però insomma non viene divulgato più di tanto. L'importante però è che chi è distaccato faccia il suo lavoro, faccia quello per cui è stato incaricato, ma in maniera veramente attiva e fatta realmente, non distaccato come andiamo in ferie. Però Claudio, tutto... posso dirti una cosa? Mettiti Prego. Nei panni per esempio di chi fa informazione, questo ruolo, l'informazione, potrebbe svolgerlo molto meglio senza doversi affidare alle conoscenze personali, ma se ci fosse appunto la pubblicità di chi sono, a quel punto l'informazione potrebbe svolgere il suo compito che è ordinario, ma potrebbe farlo in una maniera che oggi praticamente è sottratta alla possibilità di essere fatto, perché altrimenti c'è pure poi il caso che qualcuno ti dica che stai violando la sua privacy. Quindi per me, almeno per i 5.000, dovrebbe vigere l'assoluta pubblicità. Sentiamo ancora come la pensa Virgilio, che chiama da Pordenone. Prego Virgilio. Non c'è Virgilio, è caduta la linea? Va bene, allora nel frattempo passiamo, prima di passare al secondo aspetto, cioè quello che a me pare ancora più inaccettabile, quello dei consulenti e dirigenti RAI, rispondo ad alcuni messaggi che sono arrivati al 349-238-6666 a proposito delle foibe. No, guardate, qualcuno mi ha pizzicato dicendo come hai detto nazifascisti, non hai detto comunisti. Guardate, le foibe, le violenze contro gli italiani, Venezia Giulia e Salamazzo, sono stati dovuti ai partigiani, comunisti, titini. Quindi non è che non l'ho detto, partigiani, comunisti, titini. Leviamoci dalla mente questa faccenda che se uno deve stare con l'equilibrio. I partigiani titini erano notoriamente comunisti e la caccia all'italiano fu fatta da loro, quindi per vendicarsi del fascismo prima e anche brutalmente, con tante servizie sessuali, violenza a famiglie intere e così via. Quindi figuratevi se voglio incorrere per così dire nel reato di mancanza di politicamente corretto. Allora andiamo alla RAI, Francesco Grignetti, lì la questione com'è? Lì la questione è grottesca, diciamola con le parole giuste. Abbiamo una legge che stabilisce che tutte le società partecipate devono rendere pubblici il numero dei dirigenti, quale lo stipendio, anche i consulenti, cioè i lavoratori dipendenti e non a livello dirigenti. E RAI non si adegua, non comunica al governo i dati, tantomeno li mette sul sito internet, come invece pure il contratto di servizio, cioè insomma quel contratto che regola le cose rispetto al Parlamento e al governo vorrebbe. Quindi qua sia la norma che il contratto di servizio non dovrebbe consentire alcun tipo di ambiguità o di contrapposta interpretazione. Teoricamente no, però poi di fatto assistiamo a un muro di gomma. Ma allora perché quando ha intervistato il garante anche su questo aspetto, e qui ho fatto un salto sulla sedia, infatti ti chiedo di approfondire perché ho visto che poi avevi poco spazio, quindi... però il garante dice, ma state attenti che anche, dice, il quesito sulla RAI non me lo hanno sottoposto, però se mi arrivasse è mica così chiaro che io debba dire che bisogna renderli noti, perché così era la risposta che hai scritto. Beh sì, cioè io sono stato assolutamente corretto e testuale. E no? Ma in base a che cosa citate? Hai capito che il garante dice che magari fa bene la RAI a non renderli pubblici? La domanda lì era leggermente più ampia, cioè si parlava delle società partecipate, che notoriamente sono tante. Come no? Si parla, ho visto, di circa 8.000 società partecipate dallo Stato. Le 8.000 sono solo quelle di primo livello, perché poi ce ne sono oltre 30.000 di secondo livello, e quelle di terzo livello non lo sa, lo Stato non lo sa, punto. E quindi rispetto a questi obblighi di trasparenza che la legge stabilisce, il garante Soro mi ha dato una risposta assolutamente sorprendente, cioè ha detto ma guardi che le nostre risposte potranno non essere non banali. Adesso vediamo, nel senso che mi sembrava chiaro che stanno maturando delle cose, probabilmente qualche società partecipata, forse non la RAI, qualcun'altra, probabilmente interpellerà il garante per avere una corretta interpretazione delle indicazioni, delle linee guida, no, su cosa rendere pubblico e come. Siamo a vedere, io aspetto con curiosità questa puntata. Io devo ammettere che il garante che dice risposte non banali di fronte a una cosa che mi sembra chiara, cioè trasparente, società pubbliche, principio dovrebbe essere la pubblicità, io non riesco proprio a capire come. Assolutamente sì, c'è un punto che lascia pensare male, e cioè tra le varie misure della spending review attuate, decise dal governo Monti, è stato fissato un tetto agli stipendi, ed è un tetto sacrosanto, perché è stato preso a parametro il primo presidente della Corte di Cassazione. Moltissimi sono ancora sopra, per non far vedere quanti e quanto sono ancora sopra. Esattamente. Stiamo parlando di 300.000 euro annui, no? Ora, è il primo presidente della Corte di Cassazione, cioè nel cerimoniale dello Stato, una figura di primissimo piano. E tu sai che il capo dello Stato guadagna invece poco meno di 200.000 euro, quindi stiamo parlando già di un terzo di più del capo dello Stato, che secondo me dovrebbe guadagnare lui più di tutti gli altri meno. Però i magistrati, siccome hanno avuto gli aumenti automatici e si sono autodichiarati che anche il blocco degli aumenti era un pregiudizio contro l'autonomia e l'indipendenza, ecco perché i magistrati guadagnano di più. Quello è il limite. Però tu dici, forse per non farci capire che non è rispettato, ecco perché la RAI. Evidentemente forse qualcuno ha la coda di paglia e quindi qualcuno nicchia. No? Va bene, io spero che queste cose inducano il governo, non per criticare il governo, però se il governo può dire alla RAI, senti, o me li dai in 5 minuti oppure succede l'ira di Dio. Io credo pure. Penso che bisognerebbe fare così, ecco, un po' alzando il tono, anche perché è così che agli occhi della gente si perde la credibilità, come è evidente. Sentiamo Gianfranco da Rovigo come la pensa. Gianfranco. Buongiorno, senta, io mi riferivo soltanto alla questione di delegato sindacale. Sì. Io sono, adesso le do un altro profilo, io sono il marito di una delegata sindacale, la quale 10 anni fa ha avuto questa bellissima idea di fare questa cosa qua, va bene? Sì. Dove ha preso la macchina di famiglia e a tutt'oggi abbiamo 400.000 chilometri percorsi, va bene? Con 800 euro di contributo, dove deve pagare la camera sindacale, l'affitto della camera in un paese qui nel Basso Poligine, va bene? Pagarsi il gasolio, tutto quello che ne consegue, va bene? E tutto il resto della macchina, eccetera, eccetera, ricade tutto quanto sulla famiglia. Questo è un risvolto. Per non parlare delle 12-13 ore regolarmente giornaliere, dal lunedì quasi al sabato compreso. Gianfranco, ma noi non abbiamo detto che non lavorano, perché in base a che cosa potremmo dirlo? Il problema è giusto secondo lei che resti tutelata dall'anonimato? Prego? Secondo lei è giusto che... No, non è giusto. Ecco, appunto, tutto qua. Ma quello non dipende certo da... No, dipende certo da sua moglie e da chi fa l'attività di distaccare, questo lo so. È un problema di possibilità. Magari ci troveremo tutti a dover scrivere che appunto fanno una cosa ipermeritoria nel 100% dei casi. Magari, siccome siamo umani e imperfetti, quei 5 su 100 che non lo fanno bene avremo la possibilità di fare il nostro mestiere e spiegare come equalmente. E sarebbe nell'interesse dei lavoratori, non contro il sindacato, farlo. Questa è la mia modestissima idea, naturalmente. Va bene, la trasmissione è finita. Grazie a Francesco Ghignetti, continuate con Radio 24. Appuntamento domani.